Al mondo vi sono molti meravigliosi impasti, che sono tutti chiamati amore, e reclamano i privilegi di una furia sublime che è fornita come una scusa per ogni azione, nella letteratura e nel teatro. Fortunatamente Rosamond non pensò di commettere alcun atto inconsueto. Si fece come al solito delle belle trecce bionde e si mantenne orgogliosamente calma. La sua supposizione meno deprimente era che la zia Bulstrode in qualche modo si fosse intromessa per impedire le visite di Lydgate. Qualsiasi cosa era preferibile a una spontanea indifferenza da parte di lui. Chiunque immagini che i 10 giorni siano un tempo troppo breve, non per cadere in preda alla magrezza, ai capogiri o ad altri effetti misurabili della passione, ma per percorrere l'intero circuito spirituale delle congetture allarmate e della delusione, ignora ciò che può avvenire nel raffinato tempo libero a disposizione della mente di una signorina. L'undicesimo giorno, tuttavia, Lydgate, nel lasciare Stone Court, si sentì chiedere da Mrs. Vincey di far sapere al marito che la salute di Mr. Fairstone aveva subito un mutamento notevole e che lei desiderava che egli venisse a Stone Court quel giorno stesso. Ora, Lydgate sarebbe potuto passare dal magazzino o avrebbe potuto scrivere un messaggio su un foglietto del suo tacchino e lasciarlo alla porta. Eppure queste semplici soluzioni evidentemente non gli passarono per il capo, dal che possiamo concludere che non aveva granché in contrario a passare da casa un'ora in cui Mr. Vincey non c'era e a lasciare il messaggio a Miss Vincey. Un uomo può per vari motivi rifiutare la propria compagnia, ma forse neppure un saggio sarebbe contento se nessuno ne sentisse la mancanza. Sarebbe stato un modo grazioso e facile da adattare le nuove abitudini alle vecchie, scambiare alcune parole giocose con Rosamond sulla sua opposizione alla vita dissoluta e la sua ferma risoluzione di digiunare a lungo anche dalla musica dolce. Bisogna confessare, inoltre, che delle riflessioni momentanee riguardo ai possibili fondamenti delle allusioni di Mrs. Bulstrode erano riuscite ad intrecciarsi al tessuto più solido dei suoi pensieri, come lievi capelli inestricabili. Miss Vincey era sola e arrossì così intensamente quando Lydgate entrò che gli provò altrettanto imbarazzo e invece di una qualsiasi frase scherzosa cominciò subito a esporre i motivi per cui era passato e a chiederle quasi in tono formale di comunicare il messaggio al padre. Rosamond, che in un primo momento aveva provato l'impressione che la sua felicità stesse tornando, rimase profondamente ferita dalle maniere di Lydgate. Il suo rossore era sparito e assentì freddamente, senza aggiungere una parola di più, mentre un banale lavoro a maglia che teneva in mano le consentiva di evitare di guardare Lydgate al di sopra del mento. In ogni insuccesso, l'inizio è certo alla metà del tutto. Dopo essere rimasto seduto per 2 lunghi attimi mentre muoveva il frustino e non riusciva a dire nulla, Lydgate si alzò per andarsene e Rosamond, innervosita dal conflitto fra il suo senso di mortificazione e il desiderio di non rivelarlo, lasciò cadere il lavoro a maglia come se fosse trasalita e si alzò anch'essa meccanicamente. Lydgate si chinò immediatamente per accogliere il lavoro a maglia. Quando si rialzò, era vicino a uno stupendo visino posto su un bel collo lungo, che era stato abituato a vedere muovere sotto la più perfetta direzione della grazia soddisfatta di sé. Ma come sollevò gli occhi di nuovo, notò un certo tremito smarrito che lo toccò in modo del tutto nuovo e lo portò a guardare Rosamond con un lampo interrogativo. In quell'attimo lei era spontanea come lo era stata quando aveva 5 anni. Si rese conto che le erano spuntate le lacrime ed era inutile fare altro che lasciarle dove erano, come acqua su un fiore azzurro, o lasciarle cadere sulle guance, come esse volevano. Quel momento di semplicità fu il colpo di piuma cristallizzatore, scosse l'amoreggiamento e lo fece diventare amore. Ricordate che l'uomo ambizioso che osservava quei non ti scordar di me sotto l'acqua era molto affettuoso e sconsiderato. Non sapeva dove fosse andato il lavoro a maglia. Nell'intimo del suo cuore era balenata un'idea che ebbe l'effetto miracoloso di accrescere la forza dell'amore appassionato che vi giaceva sepolto, non in un sepolcro serrato, ma sotto un terriccio più leggero e facilmente perforabile. Le sue parole furono del tutto improvvise e impacciate, ma il tono le fece suonare come un'ardente e supplichevole dichiarazione. Cosa avete fatto? Siete addolorata? Ditemi, vi prego. Rosamond non si era mai sentita rivolgere la parola in toni simili. Non sono certa che si rendesse conto delle parole, ma guardò Lydgate e le lacrime le scorsero sulle guance. Non avrebbe potuto esserci una risposta più completa di quel silenzio, e Lydgate, dimentico di ogni altra cosa, completamente soggiogato dall'improvviso empito di tenerezza, all'improvvisa rivelazione che questa dolce giovane creatura dipendeva da lui per la propria gioia, l'abbracciò stringendola con aria gentile e protettiva. Era abituato a essere gentile verso i deboli e i sofferenti, e baciò ciascuno dei due lacrimoni. Erano uno strano modo per giungere a un accordo, ma era un modo spiccio. Rosamond non era adirata, ma arretrò un po', presa da una timida felicità, e Lydgate ora le si poté sedere vicino e parlare in modo meno incompleto. Rosamond dovette fare la sua piccola confessione ed egli riversò parole di gratitudine e di tenerezza con una profusione impulsiva. Dopo mezz'ora uscì di casa fidanzato. La sua anima non apparteneva più a lui, ma alla donna a cui si era legato. La sera tornò di nuovo per parlare con Mr. Vincey, il quale, appena tornato da Stone Court, si sentiva certo che non sarebbe mancato molto alla notizia del decesso di Mr. Fairstone. L'indovinata parola decesso che gli era venuta in mente al momento opportuno, gli aveva sollevato il morale anche al di sopra del consueto tono serale. La parola giusta è sempre una forza e comunica la sua precisione alla nostra azione. Considerata come un decesso, la morte del vecchio Thurston assumeva un aspetto puramente legale, così che Mr. Vincey poteva picchiettarci sopra con la sua tabacchiera ed essere gioviale senza neppure un'affettazione passeggera di solennità. E Mr. Vincey detestava sia la solennità che l'affettazione. Chi fu mai preso dallo sgomento per un testatore o cantò un inno sul titolo alla proprietà immobile? Quella sera Mr. Vincey era incline a prendere tutte le cose in maniera gioviale. Osservò persino, rivolto a Lydgate, che Fred, dopo tutto, aveva la costituzione della famiglia e ben presto sarebbe tornato in gamba come prima. E quando gli fu chiesta l'approvazione al fidanzamento di Rosamond, egli la concesse con sorprendente facilità, passando subito a osservazioni generali sull'opportunità che i giovanotti e le signorine si sposassero e deducendo evidentemente dal tutto che era appropriato prendere un altro po' di punch. Capitolo 32. La fiducia trionfante del sindaco, fondata sull'insistente richiesta di Thurston che Fred e la madre non lo lasciassero, era un sentimento debole paragonato a tutto quello che si agitava nel petto dei parenti consanguigni del vecchio, i quali naturalmente manifestarono in misura maggiore il loro senso dei legami familiari ed erano visibilmente più numerosi ora che egli era costretto a letto. Naturale, perché quando il povero Peter sedeva in poltrona nel suo salotto dai pannelli di legno, nessuno scarafaggio assiduo per il quale la cuoca prepara dell'acqua bollente avrebbe potuto essere accolto con minor gioia a un focolare che aveva ragione di preferire, a paragone di quelle persone in cui il sangue di Fairstone era malnutrito non dalla meschinità loro, bensì dalla miseria. Fratello Solomon e sorella Jane erano ricchi e la franchezza familiare e la totale assenza di una falsa cortesia con cui venivano sempre ricevuti non sembrava ad essi un motivo valido perché il loro fratello, nel momento solenne di redigere il testamento, ignorasse i diritti superiori della ricchezza. Perlomeno egli non era stato così snaturato da bandirli dalla sua casa e non sembrava nemmeno un'eccentricità che avesse tenuto lontani fratello Jonah e sorella Martha e gli altri che non vantavano un'ombra di simili diritti. Conoscevano la massima di Peter che il denaro era un buon uovo e doveva venir posato in un nido caldo. Ma fratello Giona, sorella Marta e tutti gli esuli bisognosi la pensavano diversamente. Le probabilità sono svariate come le facce che si possono intravedere nel lavoro a intaglio nella tappezzeria. Lì vi è ogni forma, da Giove a Giuditta, purché si guardi con propensione creativa. Ai più poveri e ai meno favoriti sembra probabile che, dato che Peter non aveva mai fatto nulla per loro in vita, si sarebbe ricordato di loro negli ultimi momenti. Giona sosteneva che agli uomini piace sorprendere con i testamenti, mentre Marta diceva che nessuno doveva sorprendersi se lasciava la maggior parte del suo denaro a quelli che meno se lo aspettavano. Inoltre non si poteva non pensare che un fratello steso là, con l'idropisia alle gambe, non giungesse necessariamente a credere che il sangue era più denso dell'acqua e se non alterava il suo testamento potesse avere dei soldi con sé. Ad ogni buon conto, alcuni consanguini avrebbero dovuto essere in casa e stare ben attenti a coloro che non erano parenti per nulla. Si sapeva di cose come testamenti falsi e testamenti contestati, che sembravano avere il vantaggio dorato e vago di consentire in qualche modo ai non legatari di vivere grazie ad essi. Ancora, coloro che non erano consanguini potevano essere colti a far piazza pulita delle cose e il povero Peter steso là, senza poter far niente. Qualcuno doveva fare la guardia. Ma questa conclusione coincideva con quella di Solomon e Jane. Anche alcuni nipoti e cugini, argomentando con alcuna maggiore sottigliezza su quello che poteva fare un uomo capace di dar via per testamento la sua proprietà e concedersi grandi stranezze, si rendevano conto, in misura considerevole, che c'era un interesse familiare di cui occuparsi e considerarono Stone Court un luogo che sarebbe stato solo giusto visitare. Sorella Martha, alias Mrs. Cranch, che viveva un po' di affanno nei Clanky Flats, non era in grado di intraprendere il viaggio, ma il figlio, in quanto nipote del povero Peter, la poteva rappresentare degnamente e badare che lo zio Jonah non approfittasse slealmente delle cose incerte che sembrava probabile che accadessero. In effetti, nel sangue dei Fairstone era diffuso il senso che ognuno doveva tenere d'occhio tutti gli altri e che sarebbe stato bene che tutti gli altri riflettessero che l'onnipotente li stava osservando. Cosicché Stone Court assisteva continuamente alla partenza o all'arrivo di questo o quel consanguino e Mary Gertz aveva lo spiacevole compito di recare i loro messaggi a Mr. Fairstone, il quale non voleva vedere nessuno e la mandava da basso con il compito ancora più sgradito di comunicare loro questo. In quanto incaricata dell'andamento della casa, si sentiva obbligata a chiedere loro con buoni modi provinciali di fermarsi a mangiare. Ma preferì consultarsi con Mrs. Vincy sulla questione delle consumazioni extra al piano terra, ora che Mr. Fairstone era costretto a letto. Oh, mia cara, devi essere generosa quando è in ballo un'ultima malattia e una proprietà. Dio lo sa, io non lesino loro nessun prosciutto della casa, solo risparmia il migliore per il funerale. Tieni sempre pronto del vitello farcito e del bel formaggio a fette. Devi aspettare di tenere la casa aperta durante queste ultime malattie, disse la generosa Mrs. Vincy, ancora una volta con la voce allegra e le piume splendenti. Ma alcuni dei visitatori arrivarono e non se ne andarono più dopo la generosa offerta di vitello e prosciutto. Fratello Jonah, per esempio, in quasi tutte le famiglie ci sono simili persone sgradevoli. Forse persino nella più alta aristocrazia ci sono degli esemplari da Brobdingnag, indebitati in misura gigantesca e ingrassati con spese maggiori. Fratello Jonah, dicevo, una volta venuto al mondo era sostenuto principalmente da una vocazione di cui era abbastanza modesto da non vantarsi, sebbene fosse molto meglio che truffare al cambio alle corse ai cavalli, ma che non imponeva la sua presenza a Brissing, purché avesse un buon angolino e una provvista di cibo. Scelse l'angolo della cucina, in parte perché gli piaceva più di tutti e in parte perché non gli andava di sedere con Solomon, riguardo al quale aveva una cattiva opinione fraterna. Seduto in una famosa poltrona e col vestito migliore, con cibo e allegria costantemente in vista, aveva la gradevole consapevolezza di essere sul posto, insieme a fugaci visioni della domenica e del bar del Green Man. E informò Mary Geth che non si sarebbe allontanato da suo fratello Peter finché quel poveretto fosse ancora su questa terra. In una famiglia, gli importuni di solito sono i belli spiriti o gli idioti. Jonah era il bello spirito dei Fairstone e scherzava con le domestiche quando venivano attorno al focolare, ma sembrava considerare Miss Gertz una persona sospetta e la seguiva con uno sguardo freddo. Mary avrebbe sopportato quest'unico paio d'occhi con relativa tranquillità, ma disgraziatamente c'era il giovane Cranch, il quale, avendo fatto tutta quella strada da Clanky Flats per rappresentare la madre e tener d'occhio lo zio Jonah, sentiva anche lì il dovere di stare seduto soprattutto in cucina per fare compagnia allo zio. Il giovane Cranch non era esattamente il punto di mezzo fra il bello spirito e l'idiota. Pendeva leggermente verso quest'ultimo tipo ed, essendo strabico, lasciava tutti in dubbio sui propri sentimenti, tranne il fatto che non erano vigorosi. Quando Mary Gert entrava in cucina e Mr. Jonah Thurston cominciava a seguirla col suo freddo sguardo indagatore, il giovane Crunch, voltata la testa nella stessa direzione, sembrava insistere affinché essa notasse quanto era strabico, quasi che lo facesse di proposito, come gli zingari quando Boro lesse loro il Nuovo Testamento. Questo era davvero troppo per la povera Mary. Delle volte la rendeva biliosa, delle volte sconvolgeva il suo contegno grave. Un giorno, che ne ebbe l'occasione, non poté trattenersi da descrivere la scena della cucina a Fred, che non si riuscì a trattenere dall'andarla a vedere immediatamente, facendo semplicemente finta di passare di lì. Ma non appena si trovò davanti i quattro occhi, dovette fuggire dalla porta più vicina, che per caso conduceva alla latteria, e là, sotto il soffitto alto e fra i secchi, diede libero sfogo a una risata che echeggiò sorda, perfettamente udibile in cucina. Scappò da un'altra porta, ma Mr. Jonah, che prima d'allora non aveva mai visto la carnagione bianca, le gambe lunghe e lo smunto volto delicato di Fred, diede la stura a molti sarcasmi, in cui queste caratteristiche dell'aspetto erano spiritosamente combinate con i più bassi attributi morali. «Ehi, Tom, tu non porti dei pantaloni così da gentiluomo? Tu non hai nemmeno la metà di quelle gambe lunghe così belle?» disse Jonah al nipote, strizzandogli l'occhio al contempo per sottintendere che queste affermazioni contenevano qualcosa di più della loro innegabile fattualità. Tom si guardò le gambe, ma lasciò in dubbio se preferisse i suoi vantaggi morali a una più degenerata lunghezza di membra e a una più riprovevole raffinatezza di pantaloni. Anche nel grande salotto di pannelli di legno vi erano costantemente paia di occhi sul chi vive e dei parenti desiderosi di fare la veglia. Molti venivano, pranzavano e partivano, ma fratello Solomon e la signora, che era stata Jane Thurston per 25 anni prima di divenire Mrs. Whale, trovavano che fosse bene starci ogni giorno per ore, senza alcuna occupazione visibile che quella di osservare l'astuta Mary Gert, che era così acuta che non li si poteva mai cogliere in fallo, e di dare qualche asciutto e grinzoso segno occasionale di pianto, quasi che fossero capaci di riversare torrenti in una stagione più umida, al pensiero che non era loro permesso introdursi nella camera di Mr. Thurston. Infatti, l'antipatia del vecchio verso la propria famiglia sembrava rafforzarsi mano a mano che gli veniva meno la forza di divertirsi, dicendo loro cose mordaci. Troppo deboli per pungere, una maggiore quantità di veleno gli refluiva nel sangue. Non credendo del tutto al messaggio inviato tramite Mary Gert, essi si erano presentati di persona oltre la porta della camera da letto, entrambi in nero. Mrs. Whale aveva un fazzoletto bianco in parte spiegato in mano, ed entrambi con delle facce di un colorito violaceo da mezzo lutto, mentre Mrs. Vincy, con le sue guance rose e nastri rosa sciolti, stava effettivamente somministrando un cordiale al loro fratello. E Fred, con la sua carnagione chiara, i capelli corti e ricciuti, come ci si sarebbe potuto aspettare in un giocatore d'azzardo, ciondolava a proprio agio in un'ampia poltrona. Il vecchio Thurston non fece neppure a tempo a intravedere queste figure lugubri, comparse a dispetto dei suoi ordini, che l'ira venne a rinvigorirlo più del cordiale. Era appoggiato su un cumulo di cuscine e aveva sempre il suo bastone dal pomodoro presso di sé. Ora lo afferrò e lo fece ruotare avanti e indietro in modo da occupare più spazio che poteva, evidentemente nell'intento di allontanare quei turpi spettri gridando con una specie di rauco stridio: «Indietro, indietro, Mrs. Whale! Indietro, Solomon!» «Oh, fratello Peter», cominciò Mrs. Whale, ma Solomon le mise la mano davanti per frenarla. Era un uomo dalle guance ampie, di quasi 70 anni, con piccoli occhi circospetti, e non era solo di temperamento più docile del fratello Peter, ma si considerava molto più furbo. In effetti, era improbabile che si lasciasse ingannare da qualcuno dei suoi simili, in quanto questi non potevano mai essere più avidi e disonesti di quanto egli li sospettasse. Anche le potenze invisibili, egli pensava, si potevano probabilmente placare con una mite digressione qua e là, proveniente da un uomo benestante che avrebbe potuto essere empio come altri. Fratello Peter, disse in tono di lusinga, eppure gravemente ufficiale, non è altro che giusto che io ti parli dei Three Crofts e del manganese. L'onnipotente sa cosa ho in testa. Allora lui ne sai più di quello che io desidero saperne, disse Peter, posando il bastone con un gesto di tegua che conteneva pure una minaccia, poiché rivoltò il bastone in modo di servirsi del pomodoro a mo' di clava, in caso di uno scontro ravvicinato, e guardò con severità la testa calva di Solomon. «Ci sono cose di cui potresti pentirti, fratello. Perché non hai parlato con me?» disse Solomon, facendosi tuttavia innanzi. «Potrei stare sveglio con te stanotte, e Jane con me, volentieri, e tu potresti parlare prendendola con calma, o lasciarmi parlare. Sì, mi prenderò tutto il tempo che voglio, non c'è bisogno che mi offriate il vostro», disse Peter. «Ma non puoi prenderti tutto il tempo che vuoi per morire, fratello», cominciò Mrs. Whale col suo consueto tono pacato. «E quando te ne starai lì steso senza parlare, può darsi che ti stanchi di avere degli estranei attorno, e può darsi che pensi a me e ai miei figli». A questo punto la voce le venne meno, al pensiero commovente che stava attribuendo al fratello muto. Il pensiero di noi stessi è di per sé sempre commovente. «No, non lo farò», disse il vecchio Firestone in tono polemico. «Non penserò a nessuno di voi. Ho fatto il mio testamento, vi dico, ho fatto il mio testamento». A questo punto voltò la testa verso Mrs. Vincy e trangugiò un altro po' di cordiale. «Certuni si vergognerebbero a occupare un posto che appartiene di diritto ad altri», disse Mrs. Whale, puntando gli occhi sottili nella stessa direzione. «Oh, sorella», disse Solomon con ironica dolcezza, «tu e io non siamo raffinati e belli e intelligenti abbastanza. Noi dobbiamo essere umili e lasciare che la gente furba ci passi davanti». L'animo di Fred non riuscì a sopportare queste parole. Alzato, si guardò a Mr. Thurston e disse: «Volete che mia madre e io lasciamo la stanza, signore, così che possiate restare solo con i vostri parenti?» «Siediti, ti dico», fece il vecchio Firestone in tono irritato. «State dove siete. Tanti saluti, Solomon», soggiunse cercando di maneggiare ancora il bastone, ma questa volta non riuscendoci perché aveva il manico dall'altra parte. «Tanti saluti, Mrs. Whale. Non tornate di nuovo». «Sarò da basso, fratello, che tu lo voglia o no», disse Solomon. «Farò il mio dovere e resta da vedere cosa permetterà l'onnipotente». «Sì, sul fatto che la proprietà esca dalle famiglie», disse Mrs. Whale, continuando il discorso, «e vada dove ci sono dei giovani saldi per tirare avanti. Ma ho compassione di quelli che non sono così, ho compassione delle loro madri. Tanti saluti, fratello Peter». «Ricordati, io sono il più anziano dopo di te, fratello, e ho prosperato dall'inizio come hai fatto tu. E ho già dalla terra che porto il nome dei Firston», disse Solomon, contando molto su quella riflessione, come se gli fosse stata suggerita nelle veglie della notte. «Ma per ora ti saluto». Si affrettarono ad uscire alla vista del vecchio Mr. Firestone, che si tirava su la parrucca da ogni parte e chiudeva gli occhi con quel ghigno che gli allargava la bocca, come se fosse deciso ad essere muto e cieco. Ciononostante, vennero a Stoncourt ogni giorno e si sedettero da basso al posto di servizio, talvolta dialogando lentamente, sottovoce, con osservazioni e risposte così lontane l'una dall'altra che chiunque le avesse udite avrebbe potuto immaginare di stare ad ascoltare degli automi parlanti, in dubbio se l'ingegnoso meccanismo avrebbe funzionato davvero o si sarebbe caricato per un lungo tempo allo scopo di restare bloccato e non parlare più. A Solomon e Jane sarebbe spiaciuto essere sveloci. A che cosa portava questo? Lo si poteva vedere dall'altra parte del muro nella persona del fratello Jonah. Ma la loro veglia nel salotto, rivestito di pannelli di legno, era talvolta variata dalla presenza di altri ospiti provenienti da lontano o da vicino. Ora che Peter Firestone era di sopra, si poteva discutere dei suoi beni con tutte quelle informazioni che si potevano trovare sul posto. Alcuni vicini di campagna e di Middlemarch espressero una grande unità di vedute con la famiglia e simpatia per i suoi interessi contro i Vincy, e delle visitatrici si commossero fino alle lacrime conversando con Mrs. Whale quando ricordarono il fatto che loro stesse erano state deluse in passato da codicilli e matrimoni fatti per il dispetto da ingrati gentiluomini anziani ai quali era stato concesso di vivere, così si sarebbe supposto, per qualcosa di meglio. Una tale conversazione si interrompeva improvvisamente, come un organo, quando si lasciano cadere i mantici, se Mary Gers entrava nella stanza e tutti gli occhi erano rivolti su di lei in quanto possibile legataria o come una che poteva avere accesso ai forzieri. Ma gli uomini più giovani, parenti o amici della famiglia, erano disposti ad ammirarla sotto questa luce problematica come una ragazza che mostrava molta dignità e che fra tutte le occasioni che le giravano intorno si poteva rivelare almeno una preda di valore moderato. Quindi si prendeva la sua parte di complimenti e di garbate attenzioni. Soprattutto da parte di Mr. Borthrop Trumbull, distinto scapolo e banditore di quelle parti, assai coinvolto nella vendita di terre e di bestiame. Un personaggio molto in vista, in effetti, il cui nome si vedeva sui cartelli distribuiti in lungo e largo e che poteva ragionevolmente compiangere coloro che non lo conoscevano. Era secondo cugino di Mr. Fairstone ed era stato trattato da lui con maggiore cortesia di qualsiasi altro parente, essendogli utile in questioni di affari. E nel programma del funerale che il vecchio stesso aveva dettato, questo era stato nominato uno dei portatori della bara. Non vi era alcuna odiosa cupidigia in Mr. Borthrop Trumbull, nulla più di una coscienza genuina del proprio merito, che ne era consapevole in caso di rivalità, poteva avere il suo peso contro altri competitori. Cosicché se Peter Firston, il quale, per quanto riguardava lui, Trumbull, si era comportato come l'anima più buona che fosse mai vissuta, lo avesse trattato con generosità, tutto quello che poteva dire era che lui non aveva mai cercato di ottenere per vie traverse, né l'aveva mai adulato, ma le aveva consigliato, per quanto glielo permetteva la sua esperienza, che ora durava da più di 20 anni, dal tempo del suo apprendistato a 15 anni, ed era probabile che gli fruttasse una conoscenza di genere non surredditizio. La sua ammirazione era ben lungi dall'essere limitata a se stesso, ma per professione, oltre che in privato, era abituato a trarre diletto dallo stimare le cose a un prezzo elevato. Era un amante di frasi altisonanti e non ricorreva mai a un linguaggio sciatto senza correggersi immediatamente, cosa che era una fortuna poiché parlava piuttosto ad alta voce ed era portato a predominare a stare in piedi o a passeggiare, tirandosi giù il panciotto con l'aria di uno che dà molta importanza alla propria opinione, assettandosi rapidamente con l'indice e indicando ogni nuova serie di tali movimenti con l'impiego attivo dei suoi grandi sigilli. A volte vi era un po' di focosità nel suo comportamento, ma era diretto soprattutto contro le false opinioni, e ce ne sono così tante da correggere nel mondo che un uomo di qualche lettura ed esperienza necessariamente si trova con la pazienza messa a dura prova. Pensava che la famiglia Firstone in generale fosse di intelligenza limitata, ma essendo uomo di mondo e personaggio in vista, prendeva tutto in modo naturale e andò persino a conversare con Mr. Jonah e il giovane Crunch in cucina, non dubitando di avere mai impressionato quest'ultimo con le sue eccellenti domande sui clanky flats. Se qualcuno avesse osservato che Mr. Borthrop Trumbull, essendo un manditore, doveva per forza conoscere il valore di tutto, mi avrebbe sorriso e si sarebbe rassettato in silenzio con la coscienza che c'era arrivato molto vicino. Tutto sommato, come banditore, era un uomo onorato che non si vergognava del proprio lavoro e aveva la sensazione che il celebre Peel, ora Sir Robert, se gli fosse stato presentato, non avrebbe mancato di riconoscere la sua importanza.